America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Oggi trasmetto da Praga al seguito di Barack Obama. Mario Platero vi saluta dallo storico Castello di Praga in una sala stampa organizzata dalla Casa Bianca. Castello splendido, ha ospitato i re della Boemia, ospita adesso i presidenti della Repubblica Ceca. Ha ospitato oggi nella sala spagnola il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo Medvedev per la firma del trattato per una diminuzione degli schieramenti nucleari, firma avvenuta poco fa, alcune ore fa. Poi una conferenza stampa nel corso della quale il presidente degli Stati Uniti Obama ha ignorato le provocazioni di ieri di Ahmadinejad, il leader iraniano, che lo aveva definito una sorta di dilettante della politica, ma Obama ha ribadito di volere sanzioni contro l'Iran al più presto, possibilmente entro le prossime settimane. Those nations that refuse to meet their obligations will be isolated. That's why the United States and Russia are part of a coalition of nations insisting that the Islamic Republic of Iran face consequences because they have continually failed to meet their obligations. Ecco, avete sentito appunto la voce del presidente americano, ma vediamo intanto alcuni dettagli di questo accordo che sostituisce il trattato START, già scaduto lo scorso dicembre, che riduce del 30% le testate nucleari a un numero massimo di 1.500 testate. Di più, ci sarà una limitazione a 800 missili intercontinentali a bordo di sottomarini e bombardieri, attenzione, di quelli schierati e non di ciascuno dei due paesi. In tutto questo Washington ritiene che il testo del trattato non imponga alcun vincolo ai test, allo sviluppo, allo spiegamento di sistemi di difesa antimissile in altre forme. Ricordiamolo, Barack Obama aveva cancellato i programmi antimissili nella Repubblica Ceca e in Polonia. Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US-Russia relations. Questo nuovo trattato introduce importanti elementi di verifica che prima non esistevano, verifiche di installazioni nucleari, scambi di dati e ovviamente una notifica reciproca di armamenti offensivi e della localizzazione dei siti nucleari, un trattato che durerà 10 anni e che potrà essere rinnovato per altri 5 anni. Non solo un vertice con il presidente russo Medvedev, ma un incontro con 11 paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale, membri della NATO. Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia. Sono tanti paesi, paesi importanti che l'America però ha un po' ignorato, per questo questa cena. E dunque chiediamo a Reginald Dale del Center for Strategic and International Studies a Washington qual è il significato di questo appuntamento. Well, I think the White House has finally realized that it has been doing itself quite a lot of harm in Central and Eastern Europe by seeming to ignore its interests and deal directly with Russia. Ecco, secondo Dale, la Casa Bianca e Barack Obama in particolare si è finalmente accorta di aver danneggiato in qualche modo i rapporti con l'Europa dell'Est e con l'Europa centrale. Si è occupata troppo di Russia, questa Casa Bianca di Barack Obama, e lo ha fatto sopra la testa di questi paesi che sono importanti, importantissimi alleati, paesi dell'Europa centrale, appunto dell'Europa dell'Est, che sono membri della NATO, dell'Alleanza Atlantica, ma soprattutto, secondo Reginald Dale, Barack Obama ha sviluppato questo rapporto molto stretto con la Russia anche contro l'interesse dell'Europa in genere. Nasce dunque, e questa è un po' l'idea che si deduce, un nuovo polo bilaterale. La cosa bizzarra è che nel momento in cui si è firmato questo accordo per la denuclearizzazione, o quantomeno per la riduzione degli armamenti nucleari, e come ha detto Obama, per porre fine all'idea della guerra fredda, all'idea della deterrenza e così via, ecco che il presidente Obama in qualche modo fa riaffiorare un rapporto privilegiato con la Russia, Washington-Mosca, ai danni di questi paesi che avevano recuperato questa libertà e si sentivano ormai parte dell'Occidente. Obama's own naivety in dealing with Russia, he hasn't been really aware of the political political and security ramifications in Central and Eastern Europe, and Obama doesn't really care very much about Europe anyway. Ecco, secondo Reginald Dale, in effetti Barack Obama è stato molto naif nel sviluppare questo suo rapporto bilaterale molto stretto con la Russia, senza rendersi conto appunto che andava a danneggiare o comunque ad irritare questi altri paesi che per 50 anni hanno vissuto sotto il giogo dell'Unione Sovietica e di Mosca, e senza rendersi conto che questo alla fine era contro l'interesse degli Stati Uniti. E secondo Reginald Dale c'è un esempio particolare che ci spiega la dimensione dell'errore americano. Obama administration has been very ignorant of European politics, and the best example of that is the way he abruptly cancelled the missile defense project in Poland and the Czech Republic. La storia, i fatti, dice ancora Dale, ci dimostrano quanto l'America sia stata ignorante in materia di politica europea. Secondo lui l'esempio migliore è quando l'America ha deciso di annullare improvvisamente il progetto missilistico per la difesa missilistica che doveva essere basato in Polonia e in Repubblica Ceca. Lo ha annunciato senza consultazione, senza rendersi conto che questi due paesi avevano affrontato enormi sacrifici politici anche dal punto di vista interno per procedere lungo la strada suggerita dagli Stati Uniti. La Polonia in particolare aveva cambiato radicalmente l'impostazione della sua politica difensiva. Adesso questi paesi temono che gli Stati Uniti possano anche decidere, sotto l'influenza della Russia, di cancellare anche i programmi per l'installazione di missili a corto raggio nell'Europa dell'Est, in particolare in Romania, in Bulgaria e in Polonia, programmi che fanno parte di un progetto americano. L'aspetto ironico, sottolinea Dale, è che l'America ha rinunciato a queste piattaforme, che ovviamente davano moltissimo fastidio alla Russia, senza ottenere nulla immediatamente in cambio. Lo stesso presidente Obama lo ha enunciato in quei termini. I don't think he sees himself as leader of the West. He said in Tokyo in November that he was the first Pacific president. Chiaramente, dice Dale, questo presidente americano non ha alcuna attrazione evidente nei confronti dell'Europa, o comunque non a sufficienza, preferisce molto di più paesi come la Cina, come il Brasile, ovviamente la stessa Russia, l'India, ma anche con l'India c'è stata un po' di freddezza. Secondo Dale, Barack Obama è il primo presidente americano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a non essere un presidente atlantico. Del resto lui stesso lo ha dichiarato, si considera il primo presidente del Pacifico, e dunque questo suo posizionamento lo porta a distaccarsi dall'Europa, a non sentire un rapporto, una relazione con l'Europa, quel rapporto, quella relazione che altri presidenti americani avevano anche per forse ragioni di età e ragioni di esperienza. E dunque conclude Dale che alla fine, nel suo profondo io, Barack Obama non si considera, come gli altri presidenti americani si consideravano, un leader dell'Occidente. Si vede piuttosto come un leader americano. Vuole trasformare l'America come uno dei tanti paesi e influenzare il mondo grazie al suo carisma personale. Secondo Dale, purtroppo il mondo non funziona così, le altre potenze ne hanno approfittato e forse continueranno ad approfittarne. E infine dice Dale che Barack Obama finisce per essere, ed è questo un paradosso, un vero presidente unilaterale, perché pensa soltanto all'interesse suo e dell'America senza condividere così gli interessi dei paesi alleati, e dunque ancora più unilaterale, e questa ovviamente è una provocazione di George W. Bush. Ci sarebbero mille altri argomenti di cui potremmo parlare anche qui da Praga, ma siamo arrivati alla fine del programma e dunque vi rimando al nostro sito america24.com e chiudiamo con la canzone del giorno. Sia Aretha Franklin che Michael Jackson saranno inclusi, iscritti nella Hall of Fame dell'Apollo Theater a New York. Ci saranno delle celebrazioni a giugno, non è chiaro se interverrà la famiglia di Jackson, ma Aretha Franklin ha detto che ci sarà senz'altro. Dedichiamo a lei dunque la canzone di oggi con Sink. Braga è tutto, ci risentiremo domani. Goodbye and get going!